Cos'è successo in questa piazza 40 anni fa? Imbarazzo. Non lo sappiamo. Sapete cos'è l'attentato di Piazza Fontana? C'entra qualcosa, non lo so, con senza paura. Con il comunismo? No. Non lo so. Te lo giuro che non lo so. Ok, se vi dico Pietro Valpreda, vi dice qualcosa? No. Ok, praticamente in questa piazza 40 anni fa è esplosa una bomba e c'è una banca. Ah. E... c'entrava la mafia? No. E... se vi dico Pinelli... Niente, no, mi piace, siamo totalmente... No, ma non è un problema, eh. E se vi dico strategia della funzione... Fate vedere, ma... Arabo. Okay. Grazie. Thank you.